Simone Signoret. Lessi Addio Valodia di Simone Signoret diversi anni fa per conto mio e lo trovai uno di quei romanzi che si rileggono volentieri a distanza di anni, tanto che lo inserii in scaletta per farne l'audiolettura per la scuola delle donne. L'autrice, Simone Signoret, è stata una grande attrice degli anni 60 e 70 e come tale viene soprattutto ricordata. Così il fatto che sia stata anche scrittrice passa in secondo piano, come è successo ad altre attrici. Ricordiamo Aida Lupino e Hedy Lamarr, attrici hollywoodiane degli anni 40. La prima, Aida Lupino, fu anche regista dei primi film sui diritti delle donne. Ce ne siamo occupate come Scuola delle Donne. Lei ebbe il coraggio di trattare temi come lo strascico psicologico che una ragazza stuprata si porta per la vita, allora talmente scabroso da obbligarla a crearsi una sua casa di produzione, poiché nessuno voleva produrre i suoi film. La seconda, Hedy Lamarr, studentessa di ingegneria, fuggita dall'Austria nazista e finalmente oggi riconosciuta come colei che ha inventato il Wi-Fi e il GPS. Simone Signoret nacque in Germania nel 1921, ma ben presto si trasferì in Francia e lì rimase, naturalizzata francese, talmente francese da essere sepolta al Père Lachaise, il famoso cimitero parigino delle star, quando lasciò il corpo a 64 anni, lo stesso anno in cui fu pubblicato il suo primo romanzo, Addio Valodia, che qua vogliamo proporvi. Nonostante abbia lasciato il corpo abbastanza giovane, è stata una delle più intense e prolifiche attrici europee, arrivando a interpretare fino a 4 film in un anno. Il suo è uno dei volti più conosciuti e iconici del cinema francese e anche chi non conosce o non ricorda il suo nome, vedendola riconoscerà il suo volto, il suo sorriso, la sua energia e il suo carisma. Sua madre era francese. Il padre di origine ebrea polacca, e forse da questa sua conoscenza di prima mano della cultura ebraica venne l'impulso e anche le informazioni per scrivere Addio Valodia, che parla di una società multietnica di immigrati che cercano con ogni loro fibra di avere la cittadinanza francese. Dagli anni 20 alla fine della guerra, la storia della Francia, vista con occhi femminili, è raccontata attraverso le vicende di due famiglie fuggite dai pogrom di Russia e Polonia. Una Parigi raccontata come non lo è stata mai, talmente vivida da prendere corpo ed emergere dalle pagine, con le sue botteghe, i metrò, i bistrò e i laboratori artigianali, il quartiere latino e le ville dei quartieri alti, con umorismo irresistibile. Simone ricevette un'istruzione secondaria tradizionale. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con la madre e i fratelli, si rifugiò in Bretagna, dove frequentò il liceo. Nel luglio 1940, il padre di Simone si unì alla Francia Libera, a Londra. Tornata a Parigi, Simone dovette lavorare per aiutare sua madre. Nel settembre 1940, la 19enne Simone fu assunta come assistente della segretaria personale di Jean Lucher, direttore del quotidiano Le Nouveau Temps, e padre della sua compagna di scuola Corinne, divenuta attrice. L'anno successivo, ventenne, lasciò Le Nouveau Temps, determinata a diventare attrice, come Corinne, che l'aiutò a entrare nell'ambiente cinematografico. Iniziò a recitare come comparsa, sostituendo il nome di sua madre, Signoret, al nome del padre Caminker, che denunciava le sue origini per metà ebraiche. Appena 25enne, ebbe una figlia dal regista Yves Allégret che sposò 2 anni dopo. Allégret offrì a Simone Signoret i suoi primi ruoli importanti, ma fu grazie ad altri registi che lei divenne celebre. Nel 1954, Simone Signoret e Yves Montand, suo secondo marito, acquistarono una proprietà in Normandia che divenne un punto di ritrovo per l'intelligenza francese. Tra gli ospiti abituali c'erano Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre e il regista Louis Buñuel. Con il marito, nel 1958, si impegnò politicamente a sinistra. Cominciò a interpretare film politicamente orientati, denunciando il fenomeno del maccartismo o il problema delle abitazioni malsane nelle periferie. Nel 1957, a 36 anni, accompagnando il marito in tournée nei paesi dell'Est, tornò invece delusa dalla realtà dei paesi del socialismo reale, tra virgolette, non frutto della demagogia e della propaganda francese, e come già Rosa Luxemburg e Rose Wilder prima di lei, prese le distanze dal partito, senza però rinnegare le sue convinzioni politiche. Nel 1960 Simone Signoret ricevette l'Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione in Les Chemins de la Haute Ville, seconda attrice francese a riceverlo, e poco dopo firmò la dichiarazione sul diritto all'insubordinazione nella guerra di Algeria, noto come Manifesto dei 121. Negli anni 70 Simone Signoret interpretò molti ruoli, sempre drammatici e prevalentemente politici. Vinse il premio César come miglior attrice per il film La vie avant soi, che prese anche l'Oscar come miglior film straniero. Verso i 60 anni la sua salute peggiorò velocemente, fumava e beveva molto, diventò gradualmente cieca fino a non poter più girare film. Quando lasciò il corpo si trovava nella sua villa in Normandia. Quello che vi proponiamo è stato il suo primo e unico romanzo e Simone entra di diritto a far parte della schiera di autrici che ci obbligano a chiederci con tristezza chissà cosa avrebbe potuto scrivere se fosse rimasta in vita più a lungo. La scuola delle donne è lieta di proporvi, di Simone Signoret, Addio Valodia, Arnoldo Mondadori editore, traduzione di Elina Clercy Imberciadori. Da Devana, buon ascolto.